destinato a diventar farfalla. Il drugo si fa sbirro e poi impunito manganella, come un'innata mania istintiva, follia. Degli anarchici hanno epiloghi un po' strani, come Pinelli, come Sacco, Vanzetti o Giuliani, maratoneti del blu tra le nubi lassù.